Un'assemblea pubblica in primis in vista del corteo nazionale che ci sarà sabato a Roma. Abbiamo deciso insomma di farla in Piazza Maggiore, dove è già in corso una mobilitazione ormai da qualche giorno, con un presidio permanente. Insomma, la nostra intenzione è quella di portare tutte le energie che si sono viste in tutta Italia il 22 di settembre, di cercare di farle confluire tutte a Roma. Sta crescendo appunto la mobilitazione, voi vi siete mobilitati fin dal primo giorno, insomma, dell'inizio di questo genocidio, però abbiamo visto appunto lunedì scorso questa marea a Bologna, in tutta Italia, e iniziative che si moltiplicano, quindi insomma la sensibilità è aumentata. Sì, sicuramente la sensibilità è aumentata, io credo per il lavoro fatto in questi anni, un lavoro insomma che ha sempre fatto chiarezza sui contenuti, sul sostegno e solidarietà al popolo palestinese e alla sua resistenza, e appunto nel chiedere l'interruzione di tutte le complicità che a livello istituzionale e di commercio, soprattutto di armi, ci sono in questo paese. Credo che appunto, nonostante anche una campagna mediatica molto forte, boicottaggio insomma delle nostre istanze, pian piano queste mobilitazioni, che comunque appunto nel corso degli anni hanno visto migliaia di persone scendere in piazza, hanno finalmente fatto breccia anche a livello più di massa. Ti chiedo un commento, se l'hai visto, insomma, questo piano di Trump e Netanyahu per il futuro di Gaza. Sembra un po' inserirsi nelle discorsi che vengono fatti insomma da tempo, ma insomma noi pensiamo che il futuro di Gaza saranno i palestinesi e le palestinesi a deciderlo, e non i potenti del mondo e neanche i colonialisti sionisti.